pianificazione. Sì, no, ma comunque non c'è problema, non è quello il problema, te lo sto dicendo solo perché tu mai tocchi di lì. Andà bene, cosa ti volevo dire? C'è anche che l'ho arrugginito, vai per lui. Sì, vabbè. Penso che, infatti ho detto che la portavo anche per Tonino, no? Se è con Tonino, come sono visto io sabato mattina, se no Tonino come faceva a tappare delle capsule del coso? Se non le avrei portate prima, no? Io ero sabato mattina lì, però ne abbiamo parlato sabato sera, dunque, cosa si dice? No, vabbè. Io non ci ho tentato pure, no. A me me l'ha detto, me l'ha detto sabato sera, me l'ha detto giovedì o venerdì. Io il giorno passato a prendere la canna lì di via Pascoli, poi sono passato la rapide e poi gli ho chiesto questa cosa, ma non è che fosse una cosa necessaria, lo giuro. Le ho chiesto se ripassate, ripassate, se no pazienza, non c'è problema. Stai sbagliando Gianni, se mi ha detto Tonino, poi si è intromesso anche Tonino e ha detto anche a me me ne dai una, sì, se non te l'avrei portata direttamente il sabato, no? Stai sbagliando, se mi dici che l'abbiamo parlata magari 15 giorni fa, sono d'accordo con te, per un'altra volta, però l'ultima volta che ne abbiamo parlato sabato sera e io ero lì sabato mattina, tanto è vero Tonino poi. Anche lui me l'ha chiesta una, ha detto va bene, no, anche con te vuol dire che porterò due, ma eravamo di sabato sera, oh già, ti stai sbagliando. Sì, vabbè, magari mi ricordo male, io non lo so. Quando vuoi se porti non c'è problema, tanto io ogni tanto ci passo, per questioni di uccelli, pesci e ammalarci cocco. Sì, e poi te lo dico, quando te la porto te lo dico, no? Che lì da Davide. Vabbè dai, continua tu con chi? Con Claudio. Chioro, arginuso. C'è molta propagazione, così mi ascolti che ho arginito. Però il fatto che non ti ascolto io adesso, stanno parlando. Ah, quando Santiago Lombo è qua, capito? Mi sta proprio comprendo di brutto, non riesco a ascoltare, un casino, stavo comprendo di brutto, almeno fosse una buona propagazione a parlarci, invece questi qua, ma insomma quello dove sono. Grazie, era Giulio, ma ha detto di riprendere noi, forse non ha voglia di parlare. Lo sento, ho fatto una preparazione, lo già lo sento, è quello, grazie a Dio. Io lo sento basso basso. E la preparazione ti sta coprendo, un attacco lineare non ti sentiamo più caro. Mettici i capi vecchi e dopo i nuovi, quando te li fa li metti. Attacca lineare perché se no non ti si sente. Qualcosa, guardo e la risposta ma ce l'hai sempre, perché adesso con internet c'hai tutto quello che vuoi. Io faccio anche l'allevamento di canali di virata e cose, ogni tanto guardo, consigli, questo, quell'altro, tipi di mangime, tipi di... guarda un po' tutto. Guarda, WhatsApp, guarda. Che cosa sulla... la collezione? Revis, te l'ho mandato, Revis. È una collezione, va. È la collezione, la base, tu hai detto avevo 4. Ma chi è questo qua? Adesso due li porto alla Davide, uno a te e uno per Tonino. Lo dai tu a Tonino, se per caso non lo tiri tu, se no sì. Prenderselo, è uguale. Carino due. Va bene, dai. Magari se salgo lunedì ti riporto, però non sono sicuro se salgo lunedì o se salgo martedì, adesso vediamo, ok? E non ti preoccupare, quando puoi farlo, non è che... ah, ti ringrazio, non c'è problema. Ciao da Ruggini. Ma nulla, cosa è successo? Non scendo sta giù. Ora, ciao da Ruggini. Sì, che stai dicendo? Cosa lo? Mi sono rassicurato perché non rispondi, ho detto, dove se non mi senti più. Calma, hai provveduto a attaccare? Va bene, dai, non c'è problema. Perché i negozi stasera aperti sono? Va bene, dai, no problema. Giulio, non è gara stasera? No, Giulio non risponde, dai. Io vado un attimino in bagno, scusatemi. Riprendi o se c'è qualcuno, se no io sarò in bagno. Sapevo che eri qua ad aspettare. Chiodo Ruggito, andato via. Cambiato apparecchio, non so se ve ne siete accorti. No, questo qua è il magno. No, questo qui già va bene. Come è? Il microfono è normale. No, è l'originale dell'apparecchio questo. Non si addicono molto questi apparecchi ai microfoni amplificati o Chiodo Ruggito. Perché fischia, se lo devi adeguare a un microfono amplificato devi usare praticamente una Ferrari col motore 500, cioè devi abbassare il coso, come si chiama, una specie di processore, dai, il top gun, lo devi togliere, poi devi abbassare il making in, cioè lo devi usare come un apparecchio normale, allora tanto vale che c'è questo, quindi preferisco lasciare il microfono suo che va bene così. Guarda adesso come mi ascolti, Chiodo Ruggito, dammi un controllo così, cambio. No, ce l'ha un tantino, gli ho messo un tantino appena. Un, due, tre, guarda, così sempre bene sta arrivando, dimmi il segnale. Cava. Perché questo ha il doppio modulatore, capito? È quello il problema, che ha il doppio modulatore, quindi esce così con l'eco. E lì c'è la legge del più forte, chi arriva più forte entra, se no ti rabbini il luce. Stavo ascoltando. E da quanti ampere è, Antonè, questo alimentatore? È di quelli col trasformatore grosso, sicuramente, di quelli antichi, di quelli che facevano prima, dai. Che tra l'altro sono i più precisi, quelli che ti dicono che ha, per dire, 50 ampere, 50 effettivi te ne danno. Non so come quelli di adesso, ti scrivo 35 e te ne danno 20, per dire. Sono, diciamo, più selettivi come coso, come arriva in Tatturi. Però io ho sentito dire, e stavo ascoltando quello che stavate dicendo, ho sentito dire che praticamente quando uno ha una stazione, tutto ciò che c'è attaccato deve essere omologato, c'è. Tutto ciò che c'è attaccato, all'attamino gli hanno preso anche il coso, il rosmetro, perché non era marchiato c'è. Ok, buonasera, non è marcato c'è. Va bene, qua da questa zona, Uranio, dalla collina, buonasera a tutti, stavo ascoltando le stazioni qua, io volevo da ZG, da 25 Alterno, modello 1201. Ok, buonasera a tutti, mi chiedo a Rogginetto, mi dovete dire come sto arrivando lì a questa zona, sicuramente, ma va bene, mi direi anche come... come sono di motivazione e se c'è un'amplificazione a casa, e a te cambio, buonasera. Ok, barracuda, scappa, non avevo capito che c'era anche tutto, vabbè comunque buonasera anche a te, salutore cordiale, però mi arrivi passivo di radio tu, mi arrivi passivo di radio e in altri tempi arrivavo più forte di radio, molto più forte, anche a Radio 5 il quale è arrivato, stasera ti sento una radio molto bassa, segnale mi pare che ricevi, non ho visto bene, ma la radio ce l'hai molto molto bassa, comunque. Buonasera anche a te, K, comunque non stavo dicendo la prima, qua c'era anche un alimentatore della ZG, pesantissimo anche questo. Niente, dai, da 25 Alterno, modello 1201, ok. Va bene, c'era un sacco di anni, non sarebbe stato, l'ho imparato anche parecchio. Ok, dai, va bene, riprendi tu Fiodo Arrugginito e fai girare, dai. Sempre una buona sera per tutti, ok, a te cambio. Okay, ciao Uranio, ben sentito, dai. Cordialità anche a te, dai. Buonasera. Santiago 5, Radio 5, qua a Sassari. E allora quanto non ha una stazione base? Dove l'hai trovato questo alimentatore? Di quei anno è? Ma l'hai preso su internet? Infatti ho sentito che lo stai restaurando, pensavo che fosse qualcosa che avessi trovato dove vai tu a cercare la roba, no? E che magari gli mancasse qualche pezzo o che fosse partito qualche pezzo e lo stavi risostituendo. Pensavo così, ho capito. Hai fatto bene, intanto quei componenti saranno usurati, dopo tanto tempo saranno usurati. Hai fatto bene a cambiarli. E dove li hai trovati? Alla GBC? Ci vogliono saltatori forse ad aria calda in certi casi. E vabbè, comunque mi fa piacere che l'abbi ripristinato tutto, che sia ritornato in vita bene, dai. Va bene, Antonella, Apple è una buona casa costruttrice degli anni 90. E beh, se tu dici ti alimentatore Apple sicuramente non ti dà niente, però l'Apple ha fatto tante cose, ha lavorato per la Philips, ha lavorato per tante case costruttrici, è un buon alimentatore quello, stai tranquillo, hai fatto bene a tenertelo e a metterlo a posto. Io sono andato a portare i cani, già ne guardi mai, tutte le gambe oggi. Sarà stoccato di tempo maledetto. La vecchiaia è carogna. La vecchiaia sarà carogna, Lucy, oramai, mi pare che si stanno cedendo. Fanno male sempre le ginocchia, pianta dei piedi e tutto. Va bene, sono entrato per salutarvi, dai. Vi auguro la buona serata, buon fine serata a tutti, buon inizio per domani, ci sentiamo alle prossime occasioni, non so chi è entrato, comunque io poco fa ho sentito a te Antonello, Gianni e a Claudio D'Amuros, poi non ho sentito altro nessuno, va? Ok, Claudio riprendi tu, per me QRT, ci sentiamo, ciao ciao. Sì, te lo faccio sapere, sì. Ciao, ciao a tutti, ti faccio sapere, Claudio, appena ho due minuti faccio un salto, capito? Sono un po' impegnato in questo periodo. Infatti c'è sempre il tuo manuale da darti lì nell'ingresso. Ho rischiato che mia moglie buttasse la mondesta, ho detto non toccare questo manuale perché non è il mio. infatti me lo sono riportato qua in stanza, dai. Ok, appena posso salgo e ci vediamo. Ciao a tutti di nuovo, vai, doppio. Ehi, ciao, ciao, ci sentiamo. Avanti. Oh, Antone. Brecco. Cavagava. Brecco. Ah, non mi hai più dato risposta, dimmi sì o no. Fabrizio già. Brecchi. Vai, vai. Allora, guarda un pochettino adesso, adesso gli ho fatto anche quella modifica per poter ascoltare a larga banda, senza filtro, e poi con un interruttorino dietro si la riporti normale, per non avere sblatter, poi se sì, per il momento quando troverò un filtro, pace, però per il momento c'è questa modifica, quindi puoi ascoltare anche in larga banda. A me va bene Fabri adesso. Sì, sì, va bene Fabri. Ce l'ha acceso un po' di ore adesso, l'ho lasciata 20 minuti in trasmissione, sembra a posto, boh, io chiusi così, altre ore, boh, adesso vediamo un po' se non sgancia, insomma la tengo io un po' sotto osservazione e via, perché sono lì dentro, è tutta messa a posto, allineata, è perfettamente in isonda, proprio, vediamo un attimino, dai, che ve posso dire, non comprate radio a seconda mano se non le conoscete. Io non mi butti a me, non ti preoccupare, tienila tu, non gliela dai ancora, tienila, modula ogni tanto, tienila sotto controllo e poi gliela dai, Fabri, se no non mi vuoi bene un chissà radio. Ma io più di tanto, c'è il mio con un altro 440 mio che sto devo rimettere, finirmi di mettere a posto, quello sarà proprio una bella radio, e anche quello da mettere a posto alla fine. Più di tanto non ho questo gran tempo, qui devo iniziare il piano in casa, se inizia il piano in casa immaginati tutto quello che dovrò fare su, per carità, ne devo iniziare a lavorare su, quindi non fra un po' smantello un po' tutto, quindi immaginati se avrò tempo di poter dire fai il radio, smonto anche tutte le apparecchiature da laboratorio e via, se inizia quella roba qua a luglio. Il piano, sì sì sì. Va bene, va bene, comunque adesso stai andando bene, dai, lasciala stare, però ti consiglio di non dargliela ancora, tienila magari qualche altro giorno sotto controllo e poi vediamo, per il momento stai andando bene. Ok, io vi saluto e vado a cena, ciao a tutti, buon fine domenica, buon inizio settimana per domani, vai doppio rumbo. Fabri, dopo gli dici non tocca se, così non tocca più nulla. Ma anche lui deve fare esperienza, l'importante è che smanetti, deve fare, lasciatelo fare, raga, guarda, però adesso mi sto qui l'ultima vita, me la metto sopra un'altra radio e al posto del 440 ci collego questa, e per un paio di giorni uso questa in 27, quindi vediamo un attimino, dai. Scappa. Avanti Antone. Cosa Antone? Stanno mettendo la portata. Che radio è? Quella che sta usando Fabrizio? Ha detto che c'è anche Uranio, io non l'ho sentito, comunque se c'è deve passo il cambio. Avanti Uranio, buonasera. Ok, buonasera Claudio, io la Giuseppe Sicurezza di ascolto, entro per vedere qualche controllino qua e basta, è la problema di sempre in corretti di ascolto. Buonasera anche a te, nuovo Claudio, ben sentito, Ok Claudio, mi dovresti dare un parere tu adesso, scusa se mi permetto, come sono di radio, qua la strategia, sto usando un Tarn più 3 qua, volevo vedere se, perché io ho fatto fare la connessione e quindi ha questo parecchio. Per me non è il Tarn più 3 che si accappa. Sto uscendo, avanti Claudio con la palla. Francesco, ciao, buonasera, io ero in chiusura, comunque ti posso dire che la modulazione è chiara, ma manca di acuti, non sembra neanche un Turner più 3, o se lo è, non so se è stato modificato, perché il Turner più 3 c'ha molti acuti, questo è molta tonalità medio-bassa, mancano proprio gli acuti, comunque in linea di massima ti posso dare 4 di modulazione, proprio perché manca un po' di qualcosa, ma è abbastanza chiara come modulazione a te. Ok, ok. Grazie, volevo sapere quello, Claudio, grazie. Ok, questo tale, sai cos'è? L'avevo portato a riparare perché mi avevo dimenticato di togliere la batteria e quindi se è tutto ossidato non funzionava più, non usciva più. Questo, la riparazione, dipende da Marchiere, Marchiere, quello lì, quando era su... da qualche parte del laboratorio una volta, lì evidentemente come ho fatto la riparazione, ho cambiato tutto e poi c'è stato già combinato questo qua, infatti me ne ho accorto, me ne ho detto anche un altro, però non ero sicuro, infatti ho chiesto a te per vedere com'era. Vabbè, comunque grazie. Lo so, purtroppo hai ragione tu, perché non è più, diciamo, come il Turner, diciamo, la sua... Il circuito di Turner questo, no? È, diciamo, originale questo qua. Per me la capsula non è la sua. Ho fatto imparare per... Qualcosa è successo, dai. Batteria, se ho tirato tutto qua, non funzionava più niente. Ok, niente di più, dai, grazie ancora e buona cena quando la farai, Claudio, ci sentiamo, dai. Vabbè, non so, ti devo riprendere qua, riprendi doppio rum, dai. Vabbè, no, uscire c'è bene, cosa, però non la sento la modulazione del Turner, che bella corposa, bella... magari dipende anche dalla voce, non lo so. Comunque la modulazione è chiara, niente da dire. Sì, va bene, non so che la modulazione è chiara, ma me l'ha detto anche un altro, però non ero convinto. Infatti adesso mi avevo sentito Claudio, ho detto sì, allora quello lì aveva ragione. No, gli ha tolto, diciamo tutta la sua qualità di modulazione, questa apparecchio questo qua, ok. Va bene, non fa niente, dai, vuol dire che sono contento di usarlo com'è, però non va bene, dai, non va bene, non mi convince per niente. E oramai è così, dai, non ci posso fare niente. Non è la colpa la mia, se dovevo togliere la batteria, purtroppo è così, dai, pazienza. Ok, va bene, riprendi tu Gianni e fai girare, dai. Ciao Antone, buon carica batterie, ci sentiamo, avanti, chiodo Ruggito. Solitamente ci siamo sempre fino a mezzanotte, l'una, quasi sempre, sempre. Tanto io adesso sto andando a fare carica, lo faccio da mangiare anche al cane, lo porto giù e poi quando risalgo ci sentiamo, dai. Buon viaggio, Ma ti sento, stai facendo il notturno. Ma arrivo mattina vicino... Cosa? Vabbè. Allora io sono un orecchio di porco. Siamo. Caponano, allora io sono un orecchio di porco. No, niente, sto... Io lascio sempre tutto acceso. Ho detto già, quando io entro a spegnere le radio, oddio, la radio, ti sento che ti stai trattenendo sino a tardi. Vabbè, quando c'è gente mi fa piacere, perché questo è tranquillo, non c'è QRM, si fanno discorsi tranquilli e mi fa anche piacere, dai. E l'altra notte siamo coricati all'1:15. Vabbè, tu la mattina sei a casa, io esco presto, come alle 7, alle 8:15 sto già uscendo, capito? Quindi no, se capita il fine settimana, in questo periodo non ne ho voglia. E poi, ti ho detto, ho tirato via tutto, no, non c'ho niente più, non c'ho più niente, ho tolto tutto, ho lasciato solo un baracchino e un K, gli altri li ho dati tutti. Vabbè, dai, ci sentiamo ragazzi, fatevela bella e buona. Alle prossime se coincide, ciao. Ciao. Che avanti? No. Che avanti? Che ha detto non c'è nessuno avanti? Sì, Nico, ti ascolto, basso. Ti rilancio a Riccardino che forse lui ti ascolta meglio. Lo senti a Nicola Riccardino? No, forse è migliore, lo saluto, non ho capito chi è. Avanti il tuo carrozzetta, se ci sei ancora. Lupo Grigio, ti ascolto molto basso perché il tuo QRM è molto alto e ci sono delle modulazioni in sovrapposizione. Mi dispiace perché a momenti riesco a capire quello che dici, in altre situazioni no. Vedo Riccardo se ti ascolta meglio di me. Avanti Riccardo. Grigio, ben ascoltato. No, ti sento basso. Fai un altro passaggio a vedere se ti ascolto questa volta, perché come Roberto è la stessa cosa a momenti. Santiago sì, però Radio 2 massimo, Nico, mi dispiace, purtroppo c'è molta propagazione che ti sovratta. Riccardi, c'è sempre lo stesso problema, tu aspetta un secondo prima di parlare, schiaccia la portante e poi parli, perché ti mangi la parola. Eia, a proposito importante, te la stanno mettendo, quasi ti copriva, meno male ti ascolto ancora. Mamme? Sì. Così forte? Era in distorsione la voce. Vuol dire qualcuno si vuole divertire, cosa vuol dire? Però c'è sempre lo stesso, il solito problema, bisogna dirglielo a Fabrizio, come mai c'ha questo coso qua? Già glielo dico di nuovo. Comunque, che cosa avete fatto questo fine settimana? Guarda, ieri notte io sono entrato molto tardi, abbiamo finito all'una e un quarto di parlare, per dirti. E oggi non c'ero in tutto il giorno perché ero fuori, sono rientrato adesso. E anch'io sono tornato 5 minuti fa, ho preso il baracco e l'ho portato dentro, e l'ho portato qui. Ma all'argentiera sei andato? Sì, sono andato all'argentiera. La notte, ieri era brutto, oggi era molto bello, mi sono fatto il bagno, diverse volte si stava bene. Ancora il bagno io non l'ho fatto, adesso se Dio vuole la settimana prossima mi organizzo e vedo anche io di bagnarmi i piedi, perché io il mare lo adoro, mi piace tantissimo. Ok, vediamo Lupo Grigio se ci sei e se mi ascolti, avanti a te il mic. No, Santiago 5 il QRM c'ho io, non riesco a sentirti se hai parlato Nicola. Ma il mare era buono all'argentiera, oggi c'era l'imbeccio, doveva essere così Erika? Era buono, si stava bene, non era neanche forte. Poi cosa ho fatto tranne farmi il bagno? Mi sono svegliato, ho mangiato e poi sono venuti degli amici che conoscevamo, ci siamo andati al mare e poi basta e siamo tornati. Ma non avete volato? Anche svolassiato di mattina, dopo aver mangiato, fare colazione, c'era un buon venticello ed eravamo tutti di biposto. Quindi c'era più gente rispetto ad altre persone? Cioè. Quando siamo tornati dalla spiaggia per riprendere il camper c'era un sacco di persone che stavano volando, però come ho detto di mattina Babbo ha fatto fare il volo a tutti, a tutta la famiglia. Ah, ha fatto un giro per uno, quindi anche la piccola, tua sorellina. Sì, mia sorella, perché sennò lo uccideva, perché mia sorella se non fa il biposto non ne parliamo, dai. Avanti bre. Sì, a voi, adesso sei 9 Nicola, ti ascolto perfettamente Radio 5, ma sei salito sul tetto? No, ti ascolto perfettamente Radio 5, se andiamo a Santiago 9, vai Riccardo. Ciao Nicola, adesso ti ascolto un po' meglio, comunque, sì, come hai detto, adesso va meglio un po'. Che cosa ha messo? Salito o ha messo l'antenna? Hai sentito Riccardo? Sì, ho sentito l'inizio del passaggio, l'ultimo tuo commentario non l'ho ascoltato perfettamente, che ti ha coperto un po' la propagazione, oggi è un po' forte. Sicuramente avranno fatto di ex intanto che non c'ero. Avanti, comunque mi ha chiesto per l'educazione, ha chiesto il permesso, non c'è bisogno Nico, quando vuoi parla. Dimmi quello che mi devi dire, scusa Rica. Io cosa devo dire? Niente, cosa ho detto? Quello che ho detto prima. Un attimino, scusa. Allora Nico, scusa un attimino, c'è stata un po' di confusione, ho rilanciato a Riccardino anziché rilanciare a te e ti ha parlato sopra. Riprendi tutto il discorso perché non ho capito dall'inizio, ho sentito solo la parte finale del discorso. Ripeti Nico. Sì, sarebbe una bella iniziativa, sì, l'ho letto anche io, in più di uno li ho letto di articoli, in diverse città si riaperta, adesso c'erano questi di Milazzo, io ho parlato con due di Milazzo poco fa sul canale 11, poi sono andati sul 13, anche da loro, gli scatoloni li hanno riaperti, hanno tolto i baracchini, e sarebbe bene magari qualcuno che ha qualche contatto a fare un piccolo articolo, posso chiedere io, dai, io qualcuno già conosco e vediamo un pochettino cosa si può fare. C'è stato un break e lo facciamo entrare, avanti il break. Chi era? Avanti, chi era? Fabio o Antonello? Non ho capito. Sì, Antonello. Sì, sei oltre 9 più 20, però forse sei troppo amplificato, abbassa un po', sei un po' distorto. Sì, va benissimo, adesso va bene. C'è quella discona, ma sei a casa tua o di tua sorella? C'è anche Riccardino, 9 più 25 qua da parte mia, e poi c'è Nicola, Lupo Grigio. Avanti Riccardino, per Antonello se l'hai ascoltato, e poi Lupo Grigio a seguire. ascoltato, sì, ti ascolto un po' bassino, però comunque ti ascolto. Avanti Lupo Grigio. Certo, certo. Ok, dai, fai quello che devi fare, Nicola, ci sentiamo magari più tardi, buona carica, buon tutto, quello che devi fare. Avanti Antonello e poi Riccardino. Prego. Registrato. Vai Riccardo e poi facciamo andare il break. Salutiamo Nicola. Nicola, buona carica e alle prossime. Facciamo andare a venire avanti il break. Sì. Buonasera a tutte Marco. Robè, se ti ricordi nel 2011, poi Nicola vabbè glielo diremo quando rientrerà un altro giorno. Nel 2011 Antonio Grode aveva rilanciato, diciamo, l'idea del baracchino, aveva fatto uscire sulla nuova un articolo appunto, no? Intitolato Il baracchino al tempo di Facebook, no? E voleva formare un'associazione CB, mi pare si chiamava Nikola Tesla, no? Il ricordo del vero inventore quasi delle trasmissioni a distanza. Però poi non se n'è fatto niente purtroppo, perché non c'è coesione magari tra i CB, capito? Quindi se lo puoi vedere sulla nuova, il baracchino ai tempi di Facebook è del 2011, non c'è più la foto, perché c'era una foto, hanno sbagliato, vabbè, hanno messo una foto di un VHF anziché di un baracchino sulla nuova. Vai Roberto. Sì, sì, mi ricordo bene, ce l'ho quell'articolo, tra l'altro mi ero anche iscritto al gruppo Nicola Tesla, l'aveva fatto Antonio Grode, poi è durato poco, poi non si sa che fine abbia fatto. Anche lui poi ha abbandonato, aveva preso quella patente, aveva abbandonato, eccetera, eccetera. No, Antonio mi è mancato tanto, dai, qua in CB ci è mancato tanto. Era uno spettacolo ascoltarlo, perché era di una simpatia unica, e tu se lo vedi, se c'è l'amicizia in internet, ti rendi conto. Io lo conosco di persona, non so se tu lo conosci, ma Antonio è un grande, è troppo simpatico. Mi dispiace troppo che entra quasi niente, e poi quando entra pochi secondi e basta. Ok, Riccardi, avanti a te. Ok, comunque ciao Marco, e non ho salutato neanche Antonello, vi saluto a tutti e due. Antonello, comunque aggiungo che sei tutto a pernacchia, controllati la batteria, che non so cosa c'ha quel microfono. Scusate. Si sente va a parlare. Eia, no, se no ci rischio che fai danno. Hai letto Riccardo, avanti a... Sì, scusate, che stanno scaricando il camper e qualche volta non lo sanno fare. Aspetta che vado ad aiutarli, arrivo subito. Scusatela. Rieccomi qua su 10. Chi c'è? Marco, ci sei ancora? Eia. Riccardo, mi pare stanno scaricando roba dal camper, eccetera. Compone, sto cambiando baracchino, Nicola avrà chiuso, non so se ne hai sentito Nicola, ci sei ancora? Sono fatto. Che poco cambia il segnale da un'antenna all'altra, Antonio? Cambia, io lo grido, la discola è bassa. No, ma a parte bassa o non bassa, il guadagno è impressionante, cioè da 9,20 abbondante passi a 9,50 abbondante. Se posso levarla, devo fare i fori, metterci un paio di gaffe, un paletto, e ti faccio vedere che cambia la cosa con la discola. Anche perché il segnale non è, cioè adesso ce l'aveva 27 perché è bassa. Invece in V in altre frequenze è perfetta. Io sono uscito con la, chiamiamola discona, con la multibanda, dai, e usciva bene, diciamo, il 27 usciva abbastanza bene, non aveva il guadagno eccezionale, ma meglio della Grand Prix usciva come rendimento di quella mini Grand Prix. Sì, vabbè, infatti che sarebbe come uscire con un'altra delle macchine anche via adesso, capito? E basta, mi è attaccata al palo della manto, l'ho attaccata. C'è una pipetta che tocca il tetto, i radiali sono a neanche 5 cm dal tetto, hai capito? Ho capito. Sono andato Marco. Sì, sono qua. Dimmi tutto. Mi ha portato quello, il mini ricevitore, quello piccolino, dai, non è che niente particolare, quello che stavamo parlando con Coso, con Fabio l'altro giorno, quello che c'ha il DSP eccetera eccetera, proprio una radiolina piccolina, però è carina, cioè ero su attento, tu le quante stazioni si prendono di lì in alto, cacchio, tutti francesi, mica. E qual era? Che ricevitore era? Uno piccolino, io l'ho ordinato, cinese di marca, c'ha anche la 27, c'ha da 19 a 30, poi c'ha la banda aerea, ma piccoli, proprio una radiolina, ma c'ha un bel suono, si può mettere l'antenna esterna, c'ha il DSP, e c'ha la scansione elettronica, suona, guarda, ti posso dire, c'ha una qualità audio da paura, proprio perfetta, sembra un impianto stereo con le cuffie. Aspetta, mi hai ricordato qualcosa, io avevo salvato il link con una radiolina cinese che era un ricevitore abbastanza economico, poi ho detto ma cosa me ne faccio, e ho cancellato il link, non l'ho più trovato. Sai il nome del modello, me lo puoi comunicare, il nome del modello che lo cerco? Allora, quello che ho preso io, c'erano due versioni, io ho preso quella leggermente migliore, Rainbow si chiama, però lo fa un altro marchio, sono tipo i Boafeng, cose così, per me sono sottomarchi, cose del genere, si chiama Rainbow, aspetta che ti dico il modello esatto. Qui è Giuseppe Rioncino, buongiorno Giuseppe. Buonasera a tutti quanti i componenti del canale 10. Avanti, vabbè. Ho sentito di sfuggita adesso a cos'è, Leoncino, lui è. Ciao, ben sentito Giuseppe. Allora Marco, il modello, la radio si chiama Radi Wow, ti dico con lo spelling, Roma Ancona, Domodossola, Italia, W, il modello R108. Ah, eccolo qua. Allora, non è quello che ricordavo io. Questo è tipo Texun come forma. Quello che ho visto io era verticale, era tipo radiolina verticale. Vediamo un po', adesso mi studio le caratteristiche. Ci sembra il Texun che avevo io quasi. Ok, adesso lo guardo, riprendete. Ciao Giuseppe, ben entrato, riprendi. Ciao Marco Luzzi, buonasera. E allora, Roberto, cosa mi racconti di bello? No, stavo raccontando di questa radiolina che avevo preso, questo piccolo ricevitore. Marco, lo sai cosa c'ha di bello? Anziché avere lo Smith, c'ha l'indicazione del segnale in microvolt che appare in alto. È carino per quello. Poi c'ha il DSP, un po' complicato da usare, però parte da 522 kHz e arriva fino a 30 MHz, più c'ha gli 88-108 e la banda aeronautica da 118 a 137. Tutto è quasi in continua, te lo fa queste bande, perché ti fa 522, 1620, 150, 450, 520, 1710 e 1711, 29, 999 e poi 118, 137 col DSP, ma c'ha un suono, tu devi sentire questa roba, c'ha gli accumulatori interni, l'uscita per l'antenna esterna, le scansioni eccetera eccetera. Sì, sto guardando le caratteristiche, vedo che anche l'uscita per antenna esterna, proprio come il Texun, e adesso vedo il prezzo anche, il prezzo, no, perché il Texun te lo fanno pagare già, vabbè, ma dico, l'importante è che abbia le bande laterali, ce l'ha, sì. No, bande laterali non ce l'ha, ma è un giocattolino, c'ha 500 memorie però, e non sono poche. No, le bande laterali devi prendere qualcosa di più sofisticato, questo mi pare l'ho pagato 60 euro, una cosa del genere. Era un po' meglio, c'erano due versioni, una economica e una un pochettino superiore. Ho preso quella per pochi 10 euro in più, 15 euro in più, ho preso quello superiore. Però ti posso dire, funziona veramente bene, non ho provato con l'antenna esterna, però in coso, in ricezione va bene, con quell'antenna che c'ha lui, c'ha una qualità audio, mi sono spaventato, veramente bella, di ottima qualità. Giuseppe, avanti a te il mic e poi Antonello. Allora daremo ancora l'ascolto, là. Avanti, capo di Chupa Chupa. Allora, ciao Giulia. Hai cenato Giuseppe? Sì. Mi sono mangiato adesso una cenatina con un pezzo di carne di pollo fatta alla pizzaiola, adesso. No, io proprio, guarda, non ho cenato nulla, anzi mi sono preso solo un pezzo di torta. da ieri mi sono mangiato. E poi non avevo voluto nient'altro, infatti ho mangiato lo spezzatino e era un pochettino pesantuccio. Andare avanti, Marco. Ehi, Antone. Sì, Robè, ho visto... No, il Tech 1, vabbè, aveva M banda laterali, quindi io l'avevo preso quasi esclusivamente per ascoltare radioamatori sulle decametriche. E io le radio AM BCL, cioè, non le seguo proprio, non... Allora è finito lo scopo, ecco perché costava così poco, mi pareva strano, a un prezzo così basso. Il Texun costa sulle 100, forse 130 in Italia, dico, con garanzia italiana. Poi si riceveva l'FM, forse la banda aerea, forse, ma tutte quelle non le conto nemmeno, la radio FM, capirai. Riprendilo bene. No, ma diciamo non è niente di importante, è un giocattolino, però ti posso dire, io la notte, molte volte quando sono coricato mi sveglio perché non ho sonno, allora mi accendo questa qui, ci ho memorizzato una stazione con la radio sportiva che io ascolto sempre, e la notte, siccome è una radio dove parlano, non c'è musica, ti ascolti qualche cosa, ti dovrà venire il sonno e ti riaddormenti, però è molto, molto carino perché non ha bisogno di batterie, c'ha gli accumulatori interni, c'ha la tastiera, se vuoi impostare la frequenza, c'è il timer, è bello. La cosa che mi è piaciuto è che c'ha il DSP e più c'ha l'indicazione al posto dello smitter, ti appare in microvolt il segnale d'ingresso, e quella è una cosa veramente interessante. Che è? Sì, e perché stai facendo questa voce, Riccardo? Vabbè, perché mi sono avvicinato al microfono. Comunque c'è anche Marco, oltre che Antonello, c'è anche Giuseppe Leoncino, però credo che sia ancora Rix, vediamo se è ancora presente, se no riprendi tu Riccardo. Avanti Giuseppe. Ciao Riccardino, buonasera. Siamo qua due trucche tu, Ah, ciao Giuseppe, comunque, cosa hai detto? Ho detto che ne fai due strisce, No, capito, scusa, aspetta, fammelo. Roberto, cosa ha detto? Che lo sento forte, però non ho capito cosa mi ha detto. Che ne fai due strisce, in parole povere sei un furbacchione, dai, un ragazzino molto, molto sveglio. Quando uno è molto sveglio dice, già ne fai due strisce, quando sei un dritto. Pagaffa! Poi adesso stai anche facendo le vocine, cacchio, sta diventando il padrone della frequenza, per non farti riconoscere. A me già non mi fregherai mai. Ok, vai Marcoli. Ehi, come ti dicevo, prove Texun, Degen, tutti quelli là, solo che adesso c'è una comodità con questi SDR, guarda su Roma 4 oppure Milazzo SDR. Certo, l'antenna ricevente è lì, è a Roma, è a Milazzo, non è qua, però me ne affutto, riceve così bene, niente antenne, niente di niente, basta lo smartphone e fa tutto. E a proposito, adesso lo provo sulla 27, con l'antenino si riesco ad ascoltarvi, con l'antenino su. Invece sai cosa volevo fare con l'SDR? Quando c'era molta propagazione, sintonizzarmi tipo Milazzo, sai, sull'Italia, Sicilia, che spesso lì arriviamo bene, e ascoltarmi in propagazione, però non ho avuto mai, non ho preso al balzo la palla, capito? Aspetta, sto guardando se riesci a tirarvi fuori quando parlate, vai Riccardo. Sull'Italia, che chiama? Avanti, chi chiama sul canale 10? Città di Sassari da questa parte, avanti. La provincia di Taranto. Sì, avanti l'amico di Taranto, qua Roberto, operatore Roberto, città di Sassari, avanti a te. Sì, città di Sassari, operatore Roberto, nord della Sardegna, 20 km dal mare, su la parte alta della Sardegna, avanti a te, QSL. Sei molto basso, Santiago 5 sei qua, radio a momenti ti ascolta, a momenti sei quasi incomprensibile. Riccardi, ti ho ascoltato dentro casa con l'antenino piccolino di questa radiolina. E come andava? Bene. Comunque saluto l'amico di Taranto, da questa parte va bene, 73 per te, no, da me va sempre bene. Comunque come sta andando con questo antennino? Guarda, è impressionante, non pensavo di riuscire ad ascoltarti. Se c'ho un antennino di 30 cm dentro casa e ti ascolto perfettamente. Santiago, vabbè, Santiago non ce l'ho. E la radio 5, bella, pulita. Vediamo Marco. Prova un po' a parlare. Questa gola mi sta dando fastidio. vediamo un po'. Antenino interno, vediamo se arrivo. Cacchio, tutti a bomba state arrivando, ma la radio perfetta, forse c'ha questo DSP, tira fuori perfettamente i disturbi. Guarda, ti sto dicendo, non mi immaginavo che andasse così bene questa radio. Adesso ho la possibilità, quando mi devo regolare i microfoni, mi attacco questa qua con le cuffie, che c'ha una ricezione spettacolare. Via. Ma credevo che avessero fatto la magia. Comunque, adesso per dire, quel Texun 660 lo trovi anche dalla Cina a prezzo molto minore che in Italia, però non è garanzia né nulla, se ti si rompe te lo tieni rotto, peccato, vabbè. In Italia costa di più perché è importato dalla Intec, mi pare. E tanto ormai questo è appagato, una volta che si rompono tutte le lampi, Marco, cosa ti metti a aggiustare uno di queste radioline? Sono tutti a schede superficiali, che cacchio te le ripaga? Ti dovrebbero chiedere una cifra esagerata, l'hai pagata a 50 euro, mi pare l'ho pagata a 60 euro, non mi ricordo quanto, con la spedizione, per cui che me frega, se quando si rompe ce la butto. E infatti la garanzia italiana ce l'ha pagata. Fino a 2 anni si è coperto in teoria, non su tutti i componenti. Se si rompe oltre garanzia si butta, sì, non, per carità, usa getta proprio la tecnologia, usa getta, allucinante. Pompone, riprendi. Qua sogno, ok. Sì, sono gli appalichi bellini, la verità. Ma cosa ho visto? Ha diminuito con la Geggio che voglio prendere io. Allora aspetto primo di luglio e gli oggi avrò bisogno. Intanto costa 70 euro adesso. Ha calato. Così a me la cosa me lo piazza. Che cos'è, niente in radio. Cos'è? Trasferita dal FM digitale, stereo, il 15 mesi. Ma qual è quello da 2 watt? Perché ce ne sono anche da 10 watt. Ne ho visto uno che costa 200 euro, 15 watt, ma tu devi vedere, c'ha già l'encoder stereo incorporato. Diciamo, non è un giocattolino, perché ci sono quelli da pochi euro che li paghi 40, 50 euro. Questo è veramente bello. C'ha la possibilità di collegare anche l'RDS, anche se non ce la danno la scheda in dotazione, la puoi collegare. Però c'ha l'encoder stereo incorporato. Ma fatto veramente bene, come l'ho visto anche aperto dentro lo stadio di cosa, insomma c'ha 15 watt ed è una cosa spettacolare, molto piccolino poi come dimensione. Registrato back, da 7 watt Marco, mi ricordo, 7 watt, c'è anche la 15 addirittura, lui che ha calato in offerta, perlomeno, speriamo che duri fino al mese prossimo, almeno guarda me lo piglio se la pienna poi. Vabbè, i soldi ce li ho dalla carta, il problema è che non li voglio spendere, capito? Al primo momento, che mi servono? Se no l'avrei già preso. Avanti, beh, troppa canzone, c'è boh. A volte sale, a volte scende. Ah, dove? Su AliExpress, come l'ho visto io con la roba. Proprio lì, esatto, sì. C'hanno di tutto, anche amplificatori grossi, stati REC diciamo da 1000 watt, da 1500, ti danno anche l'antenna, tutto. Ma io c'ho tutto dalla stazione mia, dalla vecchia stazione, a parte l'amplificatore, è rimasto solo il trasmettitore pilota da 20 watt della SDG, misura REC, diciamo tipo un amplificatore domestico. Poi c'ho l'antenna e cosa cacchio ci mi è rimasto? Vabbè, tutto alla bassa frequenza mi è rimasto. Ogni tanto l'ho acceso così per vedere come usciva. Però questi nuovi sono molto meglio, sono molto molto più, come si chiama, senza nessun filtro, senza niente, senza nessuna equalizzazione, hanno una qualità di trasmissione da paura. Mi voglio divertire un pochettino, non voglio prendere uno, mi voglio divertire. Avanti Marco. Marco, dimmi Natali. Me lo dici il modello di quel Texum? Allora, Papa Lima 660, Papa Lima 660, quello che avevo io, quello con le bande laterali. Quello lì. Naturalmente poi me ne ero stancato perché alla fine ascoltavo sempre solo fonia, alla fine venduto, come tutte le cose, venduto. La roba alla fine, io mi stanco della roba, mi stanco. No, io invece no, io quando ce l'ho la roba me la tengo, Massimo, ma è molto raro, c'è qualche scambio, cose così, come ho fatto con Luca quando gli ho dato il Typhoon e lui mi ha dato il Royce, con Claudio gli ho dato un apparecchio e lui me ne ha dato diversi, perché sennò io quando c'è una cosa sono molto geloso delle mie cose e me le tengo tutte belle e care e non, al limite ti posso dire, se l'ho messo le tette nel dito come ho fatto a Bracco, ho detto usatelo il mobile, come gli ho dato due microfoni, ho detto usatelo, però a vendere non mi piace. Sì, ma infatti io tutto quello che ho venduto, poi certo ho venduto non con lo stesso prezzo a cui l'ho pagato, di meno, no? Perché è usata la roba, poi soldi a mangiati e alla fine non mi è rimasto niente, né apparecchio né soldi, perché me li mangiavo proprio. Avevi tentato il flash di prendermi 7100, c'è un'occasione di questo qua, adesso sto pensando a fargli qualche proposta perché dice accetta anche Pirmut, però non saprei cosa dargli. Ma ricevitore, 7100 hai detto? Riceve 7100 della Icom, è l'evoluzione del 7000, anche se devo dire il 7000 è migliore come ricezione, però è limitato dalle memorie, c'ha solo 100 memorie, quello lì è un po' più recente, ne ha, mi pare che ne ha 1000 di memorie, più c'ha qualche cosina in più come interfacciabile col computer eccetera, però a livello prestazionale è ancora meglio il 7000. Chi c'è rimasto qua? Giuseppe in bianco, Giuseppe riprendi, aiuto. Ma io devo fare 5 minuti di pausa perché devo andare a prendere una medicina, dai, facciamo più tardi, dai, ok? Ok Giuseppe, a dopo, vai Riccardo. Giuseppe, a dopo, va bene. Come ogni sera non trovo un discorso, quando si inizia riesco a parlare, adesso che siamo all'inizio non riesco. E tu prenditi gli argomenti, te li scrivi e poi dice argomento numero uno, interrogazione, e ti interroghiamo. Raffa, e tu cosa mi interroghi perché? Allora, parlami un po' della scuola invece, hai finito quest'anno? Sì, l'ho finito quest'anno, ho finito. Ma voti ve li hanno dati, Eric? Negativo e negativo, Roger, no, non ce li hanno ancora dati, non ci hanno dato niente. Ma vi danno un giudizio o vi danno direttamente il voto? Facelle penso. Ma hai avuto delle interrogazioni? Ti hanno interrogato qualcosa? Non hanno interrogato, durante le video lezioni non mi hanno mai interrogato. E come fanno a darti il voto allora? Penso, non hanno mai interrogato, hanno mai solo spiegato sempre. Comunque sei promosso, dai, almeno quello sei sicuro che non ti bruciano. Hanno promosso cani e pulci quest'anno. C'è mio nipote che era tutto uno, in quarta geometri, ma proprio assurdo, stava andando malissimo e l'hanno promosso. Cioè almeno così hanno detto. Aspetta settembre, aspetta. Guarda che era una cosa assurda, proprio sta facendo apposta perché non ci voleva più andare a scuola perché il padre stava andando male, adesso non ti faccio uscire, adesso non ci vado più, non ci vado più, ed era sempre in ferie. Infatti ci ho parlato, stava recuperando, proprio poi quando stava iniziando a recuperare è venuto il coronavirus. Ah, se ne sappa il culo che ha avuto, hai visto? Allora, il prossimo anno a fare il suo, insomma, perché tutto quello che non ha fatto quest'anno lo fa il prossimo. Esatto, al prossimo poi di diploma, ed è complicata la storia, quando vai a fare l'esame di maturità cacchio devi avere delle buone basi, se no guai. Tu vabbè, diciamo, già ti puoi arrangiare se ti studi solo le materie che ti interessano. Vabbè, quello sì, io se va mi comico, fare, parla con la maestra, l'interroga, no, e, anche Daniela si sente la cosa, con telefonia, infatti adesso deve restituire il tablet, che della scuola quindi, perché non se ne fa niente. Ormai sono tutti promossi e poi il prossimo anno certo, va lì al Calopoleno, sia uno sia l'altro. Capace c'era qualcuno che stava chiamando, avanti che vuole entrare. Chi sei? Non ho capito chi sei. Chi sei, Gavino? Ah ok, no, non ho capito. Allora qua operatore Roberto, nord della Sardegna, isola della Sardegna, può essere? Chi è che non sta uscendo? Attenzione l'amico che chiama la Sardegna, isola Sardegna, avanti, il tuo nominativo, per favore. Vabbè, chi sei, Leonci, tu sei? No, Giuseppe c'è il bip quando esci di Rosmai. Ma va attivata lì, che sei in bianco. Sono in QRX. Ti stai facendo la cultura. Allora, c'erano due segnali, 1.9 e 1.9 quasi più 20, tutti e due senza bip, quando stava parlando quello lì. Avanti, chi vuole entrare? Sì, esce con 4 toni. Siamo a fuso tutto, anche i toni. Buonasera. Buonasera, Fabio Master. Buonasera, ragazzi, io Roberto Antonello, non so chi altri. Ciao Fabio, mi hai sentito? Master Pisci, Gazebo. Vogliamo che l'abbia quell'album. Eia. Ok, c'è anche Natalino Correx, poi c'è il più forte della frequenza dei giovani delle nuove leve, Riccardino e Antonello Pompugno. Vai Antonello. Eia, ciao Fabio, bene scucito. No, poi io pensavo di entrare in una ruota, Gesù Maria, mi stai infilando in una montagna di Montessa, così è Roberta, questa gente. Gentaglia, proprio gente di quelli, cacchio, gente avanzi di galera, delinquenti, tossicodipendenti, pirati, di tutto ci sono. Ma se cambio sono di voce, mi metto a fare un voce, una voce tipo, allora, io qua sono il padrone della tacca, va bene, lo sento per voi. Va benissimo, non ti preoccupare, qua abbiamo cani e pulci, di tutto e di più. Non c'è problema, accettiamo tutti, qua siamo in libertà, in democrazia, c'è tutto e di più. Bene, bene, sono contento. Dai che lo sbaglio di capire, facciamo girare. Ehi a Fabio, ben ascoltato, come ho detto. E dimmi tu, visto che non so cosa dire, cosa ci racconti tu? Allora, è stata una giornata veramente ben organizzata, abbiamo fatto tutto quello che avevo dovuto fare per riuscire a raggiungere i nostri obiettivi che ci siamo messi insieme, personalmente che quotidianamente, che ora dopo ora. Dunque questo momento, cogliendo la soddisfazione che siamo riusciti ad accumulare nell'arco delle ore di minuti e secondi di questa giornata meravigliosa, quasi quasi ho pensato, mi distendo un attimo per una conversazione culturale su una frequenza a caso, e ho trovato voi. Questo dalla parola mi sembra un marconista di bordo. Campa, mi hanno fatto fare le voci che... Ok, dai, è sempre simpatia, dai, è sempre piacevole. C'è anche Marco, il cosiddetto Condor. Avanti Marco. Ehi, ciao Fabio, c'è un QRM a 6, tu sei 7, quindi ti ascoltano con una radio di 2. Ma la famosa antenna, niente? Ma che Marco, ascolta, facciamo così, dai, ti chiamo. No, Eduardo, il QSO. Sul telefono e ci sentiamo tutti. Cosa ne dici? Hanno messo portante. Forse era Riccardino, avanti Riccardino. Ripeto, state sbagliando in pieno, siete fuori come un terrazzo, io non ho cliccato nessuna portante. No, non è lui, non è lui, ha premuto anche su Riccardino. Sto scherzando naturalmente, pensavo fossi tu, Mario, non ti sei accorto se stai parlando. Riccardino, vabbè, qualcuno che si diverte, dai, anche quelli ci vogliono. Non c'è problema, vediamo un pochettino chi è rimasto, facciamo un racconto. Allora c'è Riccardino, Fabio, Marco, io, Natalino in QRX e poi l'amico con la portante, se vuole entrare avanti. E c'è anche Antonello, ah scusa, Antonello Rebess. Il porco, Antonello il porco. Allora, io non me lo so mai la frequenza, mai. Oia, non mi ricordare gli anni 90, là. Mi sarei voluto in quella massata, mi sarei voluto ancora qua, e come riuscivo bene, alto le nocche. L'unico problema è che nessuno va tutto avvicinato. Vabbè, ma tutti dicono che la televisione è una schifezza, è anticulturale, tende a soggiogare le menti e via dicendo. Tu stai facendo una pulizia totale e perciò un favore alla nostra società. Io, a nome di tutti i cibi della frequenza e di chi ci ascolta, ti ringrazio. Io te l'appoggio. Io, vabbè, oggi forse ho cambiato pusher, capito? E poi Antone, quando non ci sarai più, penso più tardi possibile, ti faremo anche a Piazza dei Segni un piccolo lapide, un piccola statuina, e qua ha modulato Antonello Pompugno ai posteri. E sì, mi tocco le balle per sicurezza, forse che lei ci beve, vengono a pisciare la lapide la notte. No, ma cosa, vengo io e ti metto una panne magnetica.